hadith numero 2 da Omar, che Allah sia compiaciuto di lui. Un giorno, mentre stavamo seduti presso l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, apparve un uomo con vestiti di forte bianchezza e capelli di forte nerezza, sul quale non si ravvisavano tracce di viaggio e che nessuno di noi conosceva. Si avvicinò e, dopo essersi seduto davanti al profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, avere appoggiato le sue ginocchia contro le ginocchia di lui e aver messo le due palme delle sue due mani sulle cosce di lui, disse: «O Muhammad, informami riguardo all'Islam». L'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, disse: «L'Islam è che tu renda la testimonianza che non c'è divinità tranne Allah e che Muhammad è l'apostolo di Allah. Esegua il rito dell'adorazione, versi l'imposta coranica, faccia digiuno di Ramadan, esegua il pellegrinaggio alla casa, che è dovere se ne hai la possibilità». Disse l'interrogante: «Hai detto la verità». Ci meravigliamo di lui che, dopo avergli posto la domanda, lo approvava. Disse: «Informami riguardo all'Iman». Disse l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: «Che tu creda in Allah, nei suoi angeli, nei suoi libri, nei suoi apostoli e nell'ultimo giorno, e che tu creda nel decreto divino sia per il bene che ne deriva sia per il male». Disse l'interrogante: «Hai detto la verità». E aggiunse: «Informami riguardo all'Ihsan». Disse l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: «Che tu adori Allah come se tu lo vedessi. Infatti, se tu non vedi lui, egli vede te». Disse l'interrogante: «Informami riguardo all'ora della fine del mondo». Disse l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: «L'interrogato non ne sa più dell'interrogante». Disse l'interrogante: «Informami dei segni preannunciatori». Disse l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: «La serva partorirà la sua padrona e tu vedrai i pastori, miserabili, scalzi e nudi, gareggiare nella costruzione edilizia». Poi l'interrogante se ne partì e io rimasi pensoso. Allora l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, disse: «O Omar, sai chi era l'interrogante?» Dissi: «Più informati in proposito riguardo a lui sono Allah e il suo apostolo». Disse: «In verità era Gibril venuto a voi per insegnarvi la vostra religione». L'ha riferito Muslim.